Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il nostro sito radio24.it, ma soprattutto la possibilità di dialogare con me anche attraverso uno strumento che ormai è diventato veramente molto amato, soprattutto dai ragazzi, vale a dire il blog. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, con un motore di ricerca lo trovate facilmente, o se no attraverso l'home page del Sole 24 Ore o nel mio profilo a Radio 24. Dicevo della nostra mail. Allora, è stata raggiunta da un radioascoltatore di Bergamo che fa per l'ennesima volta presente. Di queste mail, devo dire, ce ne sono giunte tantissime, pian piano proviamo a smaltirle o ad accumularle quando magari sono simili, che fa ancora una volta riferimento, dicevo, all'annoso e perverso rapporto spesso che si instaura tra contribuente e amministrazione, in questo caso Agenzia delle Entrate. Quindi parliamo di rapporti di natura tributaria, fiscale. Questo radioascoltatore della provincia di Bergamo si è trovato ad avere una sanzione 200 volte superiore all'infrazione commessa, vale a dire lui non avrebbe, adesso lo sentiremo, pagato 10 euro, quindi al fisco invece di pagare un importo, poniamo 110, avrebbe pagato soltanto l'importo 100. A questo punto l'infrazione è stata ritenuta talmente grave che il fisco gli ha applicato una sanzione corrispondente a 200 volte l'infrazione commessa. Allora, per parlare di questo, noi abbiamo chiamato Bruno Carminati, che è il nostro radioascoltatore della provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. E abbiamo chiamato il nostro esperto del Sole, esperto del gruppo, uno dei migliori dottori commercialisti fiscalisti in giro per l'Italia, Luigi Lovecchio. Buongiorno Lovecchio. Buongiorno a voi, grazie. Allora, Carminati, ci racconti un pochino la sua storia, magari meglio di quanto io non l'abbia raccontata. Sì, allora devo fare riferimento a alcune date e alcune cifre per rendere più chiara l'esposizione. Ecco, poche date e poche cifre, perché altrimenti i nostri radioascoltatori non seguono né le une né le altre. Andiamo al succo della vicenda. Sì, allora io ricevo, devo pagare per tassazione separata dell'IRPEF circa 7.600 euro nell'ottobre 2008. Scelgo il pagamento rateale, 6 rate da 1.263 rotti euro, da pagare con una sequenza ben precisa di dati di scadenza. Inizio a pagare, a un certo punto nel febbraio 2010 ricevo una cartella da Equitalia che mi multa per una cifra intorno ai 4.600 euro. Non capendo, perché vado anche dalla Agenzia delle Entrate, mi consigliano di fare una domanda di sgravio. Faccio la domanda di sgravio a marzo, ad aprile mi arriva la conferma dello sgravio, nel senso che le due rate che mi mancavano di pagare, che avevo pagato, non me le fanno più pagare, però mi lasciano una multa di 2.000 e passa euro. Una multa dovuta al fatto che nella seconda rata, anziché pagare 1.263 euro, ho pagato 1.253 euro, quindi 10 euro di meno. Esatto. Un chiaro errore di battitura. 10 euro in meno. Allora, fermiamoci un secondo qui, poi lei racconterà magari altri dettagli. Allora, Lovecchio, noi abbiamo preso questo caso come un caso esemplificativo di chissà quanti contribuenti. Poi lei me lo smentisce o me lo conferma ciò che sto dicendo, ovviamente, e le chiedo in prima battuta: è giusto che sia accaduto questo? È normale che sia così? Ma diciamo che secondo me no, non è normale. Quello che è accaduto verosimilmente è questo, che non avendo versato la somma esatta per una rata, gli è stato, al contribuente è stato negato il diritto alla rateazione, e quindi è come se fosse decaduto dal beneficio della rateazione. Ah, ecco, questa è una cosa molto importante. Quindi lei dice: siccome ha sbagliato anche per un solo centesimo, l'Agenzia delle Entrate, invece di chiedersi il motivo, sì, prende e interrompe la rateizzazione. Esatto. E quindi sostanzialmente è come se ti contestasse un omesso versamento nei termini, perché ti dice: intanto ti concedo di fare la rateizzazione, in quanto tu mi paghi per intero ed esattamente la cifra che è dovuta in ciascuna rata. Giusto, voglio dire, il sistema è stupido, non mi riferisco ovviamente alle persone ma proprio al meccanismo, però ne prendiamo atto che noi abbiamo un sistema di questo tipo. Se non che quello che secondo me, insomma, qui è piuttosto evidente, esiste già da diverso tempo il riconoscimento dell'errore scusabile, è un istituto di derivazione del diritto amministrativo, adesso ovviamente non la faccio spiegata, però ha già trovato applicazione in diversi campi del diritto tributario, nel condono tributario, eccetera, eccetera. E nel caso dell'errore scusabile, che insomma si può riconoscere abbastanza facilmente in alcuni casi, e in questo caso a me sembra evidentissimo che certo. È un errore scusabile, e allora la stessa amministrazione finanziaria per altre fattispecie ha riconosciuto la validità dell'adempimento. Ecco, io ha detto sostanzialmente lasciate tutto come sta, recuperate solo la differenza e basta. Certo, allora questa qui è una cosa molto importante, perché? Perché in buona sostanza lo vecchio ci sta dicendo che fra contribuente e cittadino, tra contribuente e amministrazione, tra cittadino e amministrazione ci deve essere un rapporto, un dialogo, quindi si può riconoscere un errore che è stato proprio un errore, perché magari, come ci ha detto il radioascoltatore Carminati, è stato un errore di battitura. Quello che mi sorprende sempre, lo dico, lo ripeterò, voi vi chiederete, ma ha cercato il buon Galullo l'Agenzia delle Entrate? Secondo voi? L'abbiamo cercata più di una volta, abbiamo detto venite a parlare, venite a spiegare le vostre ragioni. No, non sono venuti, non sono voluti venire, non hanno risposto. Questo non lo so, ma manca un interlocutore fondamentale, anche perché, mi corregga se sbaglio Carminati, lei ci sta dicendo che però lei è andato all'Agenzia delle Entrate e questi, anziché riconoscere quello che riconosce un fiscalista, seppur tra i migliori in Italia, d'accordo, va bene, ma che conosce insomma questo riconoscimento dell'errore scusabile, invece le ha detto no, guardi, si comporti in questa maniera, faccia lo sgravio e poi vediamo. È giusto Carminati? E faccio lo sgravio e poi ci vediamo, dopodiché mi è arrivata ancora la multa, io mi sono andato ancora all'Agenzia delle Entrate, però ho trovato un muro di gomma di fronte, cioè il funzionario che diceva lei non ha pagato le rate, quindi lei ha interrotto il pagamento, nonostante io avessi pagato delle rate puntualmente, salvo certo, l'errore da certo. Seconda. Allora, detto che la formazione, stanno facendo molti passi in avanti nella formazione dei dipendenti, detto che soltanto chi non lavora non sbaglia, detto che nel pubblico e nel privato ci sono comunque tantissime sacche di inefficienza in tutte le categorie, quindi non si vuole buttare la croce addosso a nessuno, però si vuole, lo vecchio, che i nostri diritti, caspiterina, vengano rispettati. Allora le chiedo a questo punto, se lei dovesse dare un consiglio a Carminati, che si trova di fronte a questo muro di gomma, ma Carminati vuol dire i tanti Carminati che hanno sbagliato per 10 euro, anche soltanto per un centesimo, che cosa gli consiglia di fare? Ma secondo me, vista la situazione, io a questo punto impugnerei lo sgravio parziale, perché, insomma, voglio dire, dopo che uno ha tentato di parlare, ha cercato di spiegare e non riesce ad ottenere il risultato auspicato, e l'unica strada è il contenzioso. A questo punto lui ha ricevuto uno sgravio parziale, quello sgravio parziale è un implicito riconoscimento della bontà delle operazioni dell'Agenzia delle Entrate e quindi un disconoscimento delle ragioni del contribuente. Ecco, il contenzioso, diamo proprio l'ABC, che cosa deve fare Carminati? Si sveglia la mattina, maledice la pubblica amministrazione e poi cosa fa? Nei 60 giorni, quindi un termine perentorio, dalla data in cui ha ricevuto lo sgravio parziale, la comunicazione di sgravio parziale, con la conferma quindi della sanzione spropositata di cui si sta discutendo, dovrebbe presentare un ricorso in cui un esemplare va all'Agenzia delle Entrate che non gli ha fatto, diciamo, questo sgravio, l'altro esemplare nei 60 giorni, quindi si presenta il primo esemplare all'Agenzia delle Entrate, nei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso all'Agenzia delle Entrate deve depositare un esemplare del ricorso alla Commissione Tributaria. Io suggerirei però, adesso del tutto spassionatamente, sì, mi si creda o no, di rivolgersi ad un professionista, perché non è una questione per la quale chi è totalmente a digiuno di questioni certo. Con grande facilità. No, ma io voglio dire, conosciamo lo vecchio da anni, quindi voglio dire, non è che deve fare pubblicità a se stesso, quindi il suo è un giusto suggerimento, perché effettivamente la questione è complessa, però si corre il rischio di essere cornuti e mazziati, perché probabilmente Carminati poi rientrerà in possesso delle spese per chiamare un commercialista, un professionista, forse no. Ma se il giudice, ma considerato che questo è un comportamento davvero molto disdicevole, esatto, dell'amministrazione finanziaria, esatto, io ritengo che una condanna alle spese dell'agenzia, okay, da parte del giudice potrebbe esserci. Potrebbe esserci. Bene, io ringrazio Lovecchio per i preziosi suggerimenti, il nostro radioascoltatore Bruno Carminati dalla provincia di Bergamo, in regia Paolo Corleoni e in studio a Laura Fagina. Roberto Galullo vi augura una buona giornata.